Roberto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Uscire dalla crisi non è facile. Signor Tarantino, anche se ci prestasse il suo Mr. Wolf, non credo che lui da solo riuscirebbe a risolvere tutti i problemi. Tu sei Jimmy, giusto? È casa tua? Sì, proprio così. Sono il signor Wolf, risolvo problemi. Ah, bene, ne abbiamo uno. Me l'hanno detto, posso accomodarmi? Ma sì, la prego, entri. Ascoltatrici, cari ascoltatori, nel finale di questo fine settimana, dell'ultima puntata della settimana di Effetto Notte, un po' di vivacità con un Sergio Mattarella che ci ha messo del suo, Presidente della Repubblica, oggi alla cerimonia in cui si presentavano i candidati al David di Donatello, che è ancora in corso, gli Oscar del cinema italiano praticamente. Ha detto al regista tanto atteso, a Tarantino, che neanche il suo signor Wolf di Pulp Fiction, voi sentite la colonna sonora in sottofondo, vi ricordate quello interpretato da Harvey Keitel, che arrivava, risolveva un uomo decapitato così un po' per caso nella macchina di John Travolta, ripuliva tutto e faceva sparire tutto, risolveva la situazione. Ecco, dice, neanche quello potrebbe risolvere la crisi. È stato spiritoso oggi Mattarella. Parleremo naturalmente di David appena ci sarà un riepilogo, perché appunto ancora stanno snocciolando nomi e premi, ma intanto ci soffermeremo molto sulla politica. Sono successe talmente tante cose anche questa settimana e continua la scia. Tra l'altro domenica ci sono i ballottaggi, ma di quelli parleremo magari il meno possibile per questioni di par condicio. Poi ci soffermeremo su questo fatto di cronaca del capotreno che è stato aggredito con un machete alla periferia di Milano, e diventa anche una questione proprio di sicurezza, di nuovo, al di là di chi siano stati colpiti. Sono stati appunto questi ragazzi sudamericani, però effettivamente poi c'è una nota, un comunicato di Ferrovie dello Stato che dice che sono tantissimi i casi in un anno e sono più o meno pari italiani, uomini italiani e stranieri a commettere reati di questo tipo, di aggressioni insomma, a chi lavora nelle ferrovie. Poi ci sarà il meteo, poi ci sarà il calcio, sapete che c'è Italia-Croazia, sono un sacco di cose, quindi devo partire immediatamente con il riassunto della giornata. La crisi greca Atene ostenta ottimismo, mai così vicini a un'intesa, ma l'ipotesi Grexit affonda le borse. L'aggressione al capotreno col macete, fermati due ventenni sudamericani di una gang, la Lega attacca sui migranti, Zaia dice via dalle mete turistiche, Renzi invita a non istigare alla paura. Politica, domenica prossima i ballottaggi, si eleggono i sindaci di 12 capoluoghi e per il Giubileo di Roma telefonata tra il sindaco Marino e Gabrielli. Il Papa dice la Chiesa è donna e conferma la disponibilità della Chiesa Cattolica a ragionare sulla data della Pasqua per giungere a una data fissa tra le varie chiese cristiane. Cinema e David di Donatello 2015, la battuta di Mattarella a Tarantino l'avete sentita, poi vedremo quali saranno in conclusione un po' tutti i premi principali. Moda, è morta Nicole Fontana, ultima delle tre sorelle che vestirono tutta la Hollywood sul Tevere nel periodo del dopoguerra. Calcio per Euro 2016, sfida decisiva tra Italia e Croazia. E vi ricordo sin dall'inizio, ormai abitué lo sanno, ma se qualcuno si fosse messo così casualmente in ascolto di Effetto Notte e colpevolmente per la prima volta, insomma c'è sempre la prima volta, sappiate che potete intervenire sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia attraverso gli SMS al 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666, sul tema del giorno, possono essere le varie notizie di oggi, ma in particolare vi chiedo se vi sentite sicuri, se ritenete che ci debba un po' rivedere il sistema di sicurezza nelle città e soprattutto sui mezzi di trasporto, perché anche di questo parleremo. Però partiamo dalla Grecia, che è un sirtaki, vi dicevo già gli altri giorni, senza fine, la danza greca, cioè si va un po' di qui, un po' di là. Oggi il giornale Bild, il giornale tedesco, diceva che la cancelliera Merkel era propensa a un Grexit, cioè all'uscita della Grecia dall'euro. Poi invece la smentita, siamo vicino a un accordo. Insomma, non continua a non capirsi niente. Sergio Nava, aiutaci tu. Cioè, Sergio, ciao. Abbiamo chiamato il signor Wolf, ma si Anche lui di mettersi in mezzo, perché ha detto è veramente troppo difficile anche per me. Scherzi a parte, Roberta, è una situazione ancora assolutamente sul filo di lana. Quello che sta ormai scadendo è il tempo, questo è evidente. Cosa è successo? È successo che, ricordiamo, ieri i negoziatori del Fondo Monetario Internazionale sono tornati a Washington. C'è chi ha detto è tattica negoziale per in qualche modo stimolare i greci a fare presto. Oggi però è arrivata anche la notizia che i rappresentanti dell'Eurozona, che si sono riuniti sempre ieri tarda serata a Bratislava, hanno messo sul piatto tre scenari. Per la prima volta ufficialmente si sarebbe discusso anche della possibile default della Grecia e anche quindi di un'uscita dall'euro. Gli altri due scenari, pensate, quello più improbabile è stato definito quello che prevede un accordo, e poi c'è anche uno scenario invece che prevederebbe un'estensione dell'attuale programma di aiuti oltre il 30 giugno. E poi lo dicevi tu, Roberta, in serata i greci invece hanno ostentato ottimismo, è come se si giocassero due partite parallele, quella cupa europea e quella dei greci invece dicono siamo ottimisti, ormai ce la possiamo fare, loro insistono molto sull'obiettivo dell'avanzo primario, dove le differenze effettivamente non sono enormi, i creditori chiedono un avanzo primario dell'1%, quest'anno i greci sono più o meno orientati allo 0,75%, il problema è che i greci non vogliono tagliare le pensioni, che già ovviamente sono molto basse, e anche poi appunto sulle regolamentazioni del mercato del lavoro e anche sulle aliquote IVA, insomma ci sono grossi problemi. Perché quindi ci ritroveremo ancora qui lungamente, tante volte. Spieghiamola in modo molto chiaro agli ascoltatori, il problema ora è davvero il tempo, perché bisogna trovare un accordo entro l'Eurogruppo Ecofin di fine settimana prossima, giovedì, venerdì, perché è vero che che il programma scade il programma di aiuti scade il 30 giugno, però occorre, lo dicevamo anche questa settimana con te, una settimana, poco di più, per dare tempo a determinati parlamenti nazionali di ratificare questo accordo. Se non si trova l'accordo entro la fine della prossima settimana, i parlamenti non hanno il tempo tecnico di ratificarlo e quindi si andrebbe oltre il 30 giugno, e il 30 giugno la Grecia deve pagare oltre 1 miliardo all'FMI e quindi andrebbe praticamente in default. Quindi bisogna farcela a questo punto veramente, veramente entro giovedì o venerdì al massimo. Una corsa contro il tempo, vedremo se ce la si fa. Grazie Sergio. Grazie Nava. A voi. Ciao. Intanto vedevo da un'agenzia che c'è stato un minuto paradossale che ha determinato il gol del vantaggio della Croazia nella partita di qualificazione europea dell'Italia. All'11° è stato annullato un gol regolare di El Shaarawy, gli azzurri sono andati a protestare col guardaline mentre l'arbitro ha fatto riprendere velocemente il gioco, poi ne hanno approfittato la Croazia per andare in vantaggio di un gol. Poi ne parleremo dopo, perché in primissimo piano c'è sempre anche l'emergenza immigrazione, tra polemiche, fatti di cronaca, resta alta il dibattito politico, mentre le stazioni ferroviarie di Roma e Milano sono diventate dei campi profughi. È un invito a costruire insieme, ad impegnarsi tutti per far uscire il paese dalle attuali difficoltà, quello che manda il presidente del Consiglio Renzi. Non si può pensare che la globalizzazione sia il pretesto per rinchiudersi, spiega il premier. Nel mondo di oggi ci sono tanti che abbaiano alla luna, vivono sulle paure e pensano che l'unica dimensione sia chiudersi a chiave in casa. Quante persone pensano che in questo nostro tempo così complesso e difficile si possa semplicemente fare affidamento sulle paure, si possa suscitare anche gli istinti più bassi delle persone vivendo di minacce e di inquietudini. Sul tema immigrazione torna anche il presidente della CEI, il cardinale Bagnasco, che ricorda: sicurezza e legalità devono convivere con l'accoglienza verso le persone disperate, perché se una società si chiude nella paura e non garantisce la sicurezza per tutti, non è una comunità di vite e di destini, ma un insieme di interessi dove vince chi è più forte. È inaccettabile rifiutare l'accoglienza, commenta il presidente del Senato Grasso. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Spero che sia il picco, perché se dovessero arrivarne ancora di più lo vedete voi com'è la situazione. A parlare a Giorgio Ciconali, direttore servizi igiene e sanità della ASL di Milano. È fra le persone che stanno prestando assistenza insieme ai volontari delle associazioni coordinate dal comune alle centinaia di immigrati e richiedenti asilo arrivati nella stazione centrale di Milano. I need work and I need freedom. Tra loro Biniam, giovanissimo eritreo, giunto a Milano dopo un lungo viaggio tra Sudan, Egitto e Libia. Vuole soltanto lavoro e libertà. Nel mezzanino della stazione aspetta di poter partire per la Svizzera. È accampato insieme agli altri dentro e fuori lo scalo milanese. Ancora Ciconali. Mi risulta siano stati trasferiti 100 migranti in alcuni centri, ma tanti ne trasferisci e tanti ne arrivano. Io stamattina ho trovato quasi più gente di ieri, nonostante questi 100 trasferimenti. Stamattina in stazione è stato attivato anche un presidio sanitario permanente per un primo soccorso ai migranti malati. Fabio Pasiani della Fondazione Arca. Sono provatissimi da mesi di viaggio, in condizioni pessime, nelle mani dei trafficanti. Nazareno Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a Milano c'è l'emergenza sicurezza dopo l'aggressione, dicevamo, di due dipendenti dell'FS su un treno partito da Expo. Uno è stato aggredito con un macete e ha rischiato di perdere il braccio, 8 ore di intervento per salvarglielo. Sono stati fermati due ragazzi salvadoregni, due maggiorenni comunque, e sono accusati di tentato omicidio. È stato molto duro il governatore della regione Lombardia Maroni, che ha detto deve intervenire l'esercito, la polizia, devono proteggere coloro che viaggiano sui trasporti e coloro che li guidano, e nel caso anche sparare per legittima difesa. Poi ne parleremo. Siamo alla politica, oggi è l'ultimo giorno di campagna elettorale in vista dei ballottaggi di domenica. Intanto persiste la tensione nella maggioranza per il caso Azzollini. 15 giorni e la situazione politica è totalmente cambiata, incombono il caso Azzollini e mafia capitale. Matteo Renzi lo sa, tanto che lancia un appello contro la corruzione. Per il premier bisogna portare avanti una lotta senza quartiere e alle inefficienze burocratiche, contemporaneamente offrire una prospettiva. Intanto il senatore del nuovo centrodestra Antonio Azzollini, sul quale pende la richiesta di arresto della procura di Trani, verrà ascoltato giovedì prossimo dalla giunta per le autorizzazioni di Palazzo Madama. Il collega di partito Gaetano Quagliariello chiede regole uguali per tutti. Insomma, il PD, prima di dire sì, deve leggere le carte su un caso che rischia di far saltare il governo. Fino ad un certo punto, però, perché già si prepara il soccorso azzurro di Denis Verdini e dei suoi, pronti a lasciare Forza Italia in contrasto con il cerchio magico, mentre Matteo Salvini continua a spingere sull'immigrazione e Beppe Grillo sulla corruzione. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nel frattempo è stata smentita l'ipotesi di commissariamento del sindaco di Roma Marino in vista del giubileo, quindi Marino e il prefetto Gabrielli potrebbero comunque lavorare insieme. Anche di questo poi ci occuperemo quando faremo un po' il punto politico dopo. C'è una notizia che riguarda la Svezia, una notizia di poco fa: un'auto esplosa nel centro di Göteborg in Svezia, causando il ferimento di almeno 5 persone a bordo del veicolo, riferisce la polizia svedese, precisando che le cause della deflagrazione sono ancora ignote. Adesso parliamo del Papa. La Chiesa è donna, ha detto. Il genio femminile nella Chiesa è una grazia, perché la Chiesa è mujer. La Chiesa è mujer, avete sentito, la Chiesa è donna, è sposa di Cristo, ha detto, è madre del suo popolo, dei fedeli cristiani, dice, e Maria è più importante degli apostoli. Aveva già detto tempo fa l'8 marzo che la Chiesa è mamma, rifacendosi anche a Giovanni Paolo I, vi ricordate, il Papa che è durato 33 giorni, che aveva detto Dio prima di tutto è madre. E adesso la moda con Nicole Fontana, ultima delle tre celebri sorelle che vestirono tutta la Hollywood sul Tevere nel periodo del dopoguerra della Dolce Vita, è morta oggi a 102 anni. A darne notizia la fondazione Nicole Fontana, che la centenaria stilista presiedeva da 21 anni. Per il cinema, David di Donatello, vediamo se, ecco, dovrebbero essere arrivati i primi risultati. Anime Nere di Francesco Munzi è il miglior film. Il film ha ottenuto altre 8 statuette come miglior regista, canzone originale, produttore, fonico di presa diretta, fotografia, montatore, sceneggiatura, musicista. Insomma, un vero successo per il film Anime Nere e David di Donatello. E adesso invece ci spostiamo sul calcio. Il calcio maschile per Euro 2016, sfida decisiva tra Italia e Croazia, ed è già in vantaggio la Croazia. Giovanni Capuano, se non sbaglio. Ciao Giovanni. Eccomi Roberta. No, purtroppo non sbagli, non sta andando benissimo la nostra nazionale, che tra l'altro è stata protagonista anche di un episodio molto sfortunato. Allora ti racconto tutto. Intanto la Croazia sta vincendo 1-0, il gol è stato segnato da Mandzukic all'11esimo, però è un gol particolare perché 20 secondi prima l'Italia si era vista cancellare una rete regolare segnata dal Sharawi per una segnalazione sbagliata di fuorigioco. Mentre gli azzurri stavano protestando, i croati hanno messo giù il pallone, sono partiti in contropiede, sono andati dall'altra parte, tempo 15 secondi, hanno attraversato il campo e hanno segnato a loro volta una rete di Mandzukic regolare, ma davvero sul filo del fuorigioco. Grandi proteste, però soprattutto grandi ingenuità. Ma si può fare questa cosa? Si può fare perché la palla era in gioco e quindi i croati non hanno infranto nessuna regola. Di sicuro gli italiani sono stati molto ingenui, oltre che molto sfortunati, perché il gol di El Shaarawy era assolutamente regolare, avrebbe cambiato fin qui probabilmente le sorti di questa partita. È però una partita molto interessante, perché pochi minuti prima, esattamente al settimo, la Croazia aveva avuto una grandissima occasione per portarsi in vantaggio, un calcio di rigore tirato dallo stesso Mandzukic, attaccante dell'Atletico Madrid, fallo di Astori su Srna, fallo netto e anche in questo caso ingenuo. però Mandzukic ha tirato malissimo il calcio di rigore centrale e Buffon si è disteso per terra e lo ha respinto, dunque aveva tenuto il risultato sul 0-0. Poi poco dopo è arrivato l'episodio che ti ho già raccontato con i 20 secondi che hanno portato l'Italia dalla possibile vantaggio, gol annullato a El Shaarawy per un fuorigioco molto dubbio, diciamo che non c'era, e poi il gol in contropiede della Croazia. Attenzione perché è una partita fondamentale questa per il girone italiano. L'Italia seguiva prima di questa gara di due punti la Croazia, dunque se perde a Spalato rischia davvero di perdere contatto con la possibilità di chiudere prima e arrivare in carrozza all'europeo, e rischia anche di trovarsi eventualmente terza. Vedremo che cosa farà la Norvegia con Azerbaigian. Grazie Giovanni Capuano, poi vediamo se si riprende l'Italia nazionale maschile più tardi. Mentre per la nazionale femminile ci rivolgiamo alla Martina Angelini, la nostra Martina Angelini, commentatrice di Eurosport specializzata in calcio femminile. Ciao Martina. Ciao Roberto, buonasera a tutti. Perché dicevamo che già ieri che insomma, ci sono i mondiali, dal 6 giugno se non sbaglio sono partiti i mondiali di calcio femminile, 24 squadre, seguitissimo, 1 milione di biglietti venduti. Senti, la nazionale femminile ha già giocato, che sta facendo di... Allora, l'Italia purtroppo questo mondiale non si è qualificata perché ci ha fatto fuori l'Olanda nell'ultimo spareggio, quindi proprio all'ultimo secondo. Sono in tanti che noi durante la diretta di Eurosport abbiamo la possibilità di scriverci su Twitter ai nostri ascoltatori e tutti ci chiedono: ma l'Italia, purtroppo l'Italia è stata un po' sfortunata perché è stata eliminata al playoff decisivo dall'Olanda. Sono mondiali che si giocano in Canada e per ora un quadro della situazione qual è, Martina? Ma senti, ieri c'è stato un po' un risultato a sorpresa perché la Germania super favorita ha pareggiato con la Norvegia. Lo avevamo detto anche ieri che sarebbe stata una gara comunque equilibrata perché è stata la finale dell'ultimo europeo, però la Germania aveva esordito con un 10-0 alla Costa d'Avorio, quindi ci aspettavamo qualcosa di più. Invece è uscito fuori un bel 1-1, consiglio a tutti di andare a cercare il gol del pareggio della norvegese Mjelde perché è stato meraviglioso. E questo è stato il risultato un po' più eclatante. Poi c'è stata la prima vittoria nella storia del mondiale per la Thailandia, che ha battuto la Costa d'Avorio. Quindi entrambe le squadre erano debuttanti al mondiale, quindi vittoria della Thailandia per 3-2 e 0-0 fra Canada, padrona di casa, e Nuova Zelanda, con la Nuova Zelanda che ha sbagliato un calcio di rigore, quindi un po' di fortuna per le canadesi, e la Cina che ha battuto l'Olanda, appunto la squadra che ha estromesso l'Italia da questo mondiale. Si scoprono le cose belle che si dovrebbero già sapere, dovrebbero essere già ascoltate, però insomma, che anche la Thailandia è una nazionale femminile, quante cose che si imparano e... No, tutti i paesi, in realtà tutti i paesi hanno una nazionale femminile, ovviamente il livello non è uguale per tutti, però ci sono tante non sono squadre. Le americane, le thailandesi, però no, è bello che ci sia. Sicuramente no. Martina, si può seguire il mondiale femminile dove? Sì, il mondiale è in diretta, in esclusiva su Eurosport, e Eurosport ovviamente va sulla TV a pagamento, sia Sky che Mediaset Premium, però si può anche seguire su Player, perché con 6 euro per tutto il mese si può vedere Eurosport sul tablet, sul PC, sul telefono, quindi comunque una bella opportunità. Grazie Martina Angelini, ci risentiamo la prossima settimana. Ciao, buon calcio. Ora direi che sì, siamo piuttosto in ritardo per aggiornare chi viaggia, quindi dopo leggerò anche i vostri messaggi, ma adesso dobbiamo andare subito con la viabilità. Tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci qui insieme, tra poco vi ricordo le notizie più importanti, se avete acceso, anziché alle 21 puntualmente a quest'ora. Intanto vedo i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e gli sms al 349-238-6666. Hermes dice: se i casi di atti criminali da parte di stranieri sono pari a quelli degli italiani, gli italiani sono il 90%, quindi gli stranieri delinquono 10 volte di più. Ma non so se questa così percentuale sia effettivamente, questa comparazione sia corretta, però ci penseremo, insomma. Ma su questo diceva Hermes a proposito dell'aggressione al capotreno, di cui parleremo più tardi. Tra poco invece ci concentreremo sulla politica, adesso però le notizie più importanti della giornata. La Lega attacca sui migranti, Renzi dice non bisogna istigare alla paura, intanto per il capotreno aggredito c'è stata un'operazione di 8 ore per salvargli il braccio, è stato aggredito con un machete. L'Europa è sempre più divisa sulle quote da ricollocare di migranti nei vari paesi. Atene intanto non molla per quanto riguarda la crisi greca, niente tagli ma siamo vicini all'accordo. E poi invece l'ipotesi, che era comparsa sul giornale Bild, che la cancelliera Merkel fosse pronta al Grexit, affonda le borse. commissario al Giubileo. Marino Gabrielli dicono no, lavoriamo insieme. Un po' un giallo, insomma, sulla decisione del governo se intende commissariare Marino, quindi darlo in mano al Giubileo Gabrielli oppure no. C'è ironia sul blog di Grillo. E poi il Papa che dice la Chiesa è donna, poi siamo pronti a una data fissa per Pasqua con gli ortodossi, e poi afferma Maria è più importante degli apostoli. Mattarella, che ai premi di Davide di Donatello, ha detto neanche Mr. Wolf, ha detto al regista Tarantino, risolverebbe la nostra crisi. E tra l'altro il film più premiato, il film che ha vinto insomma il Davide di Donatello e altre 8 statuette, è stato Anime Nere di Munzi. Festini e Squillo, Dominique Strauss-Kahn, vi ricordate l'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, è stato assolto in Francia, abbraccia la figlia, c'è chi pensa anche un suo rientro in politica. Poi addio a Nicole Fontana, l'ultima delle sorelle della moda che vestirono Hollywood sul Tevere, morta a 102 anni. E poi per la partita Italia-Croazia, la Croazia in vantaggio per 1-0. E ora siamo in compagnia di Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera. Ovunque tu sia, perché noi ti catturiamo poi il venerdì. In redazione. No, tranquillo. Rigorosamente in redazione. Fabrizio, allora, di carne al fuoco ce n'è moltissima nella settimana politica, in questa settimana, in questi giorni. Allora, siamo partiti dalla seconda ondata di arresti dell'inchiesta Mafia Capitale, inchiesta che ha scoperchiato un vaso di Pandora, abbiamo detto più volte, di malaffare che coinvolge criminali di professione, politici di destra e sinistra, imprenditori, e che sta mettendo in discussione la sostenibilità della giunta Marino. Il sottosegretario, poi c'è stato anche inquisito il sottosegretario all'agricoltura Giuseppe Castiglione del Nuovo Centrodestra, che avevamo sentito proprio venerdì scorso, era qui ospite di Effetto Notte mentre c'eri anche tu, Fabrizio. E poi la polemica sull'accoglienza dei migranti innescata dalle dichiarazioni di Maroni, tagliare i fondi ai comuni che ospitano gli immigrati, la richiesta poi di arresto per il senatore del Nuovo Centrodestra Azzolini per bancarotta in Puglia della casa di cura Divina Provvidenza, che sta creando fortissime tensioni dentro la maggioranza, visto la maggioranza fatta soprattutto appunto da PD e Nuovo Centrodestra. Poi ballottaggi amministrativi di domenica. Insomma, da cosa iniziamo, Fabrizio? Da Mafia Capitale, che purtroppo con quello che continua a venire fuori rischia davvero di confermare tutta l'idea che l'opinione pubblica ha ormai, che tutta la politica sia sporca, sia marcia. Ma stai mettendo davvero un quadro brutto della politica romana in particolare. Io credo questa sia un po' una cartina di tornasole di una politica che però non è solo romana e nazionale, ma è nazionale a livello locale. Cioè, noi oggi assistiamo a una questione morale che si afferma soprattutto nella politica locale a livello di gestione di comuni, di regioni, forse meno nella politica nazionale, come se la politica nazionale comunque è più sotto i riflettori, è più controllata, forse comunque c'è un meccanismo di selezione che in qualche modo funziona di più. A livello locale la sensazione è che la politica invece sia fortemente inquinata, in un rapporto con piccoli poteri locali che si concentrano intorno a quell'economia municipale che è fatta di società partecipate. E quindi io credo che quella riforma che il governo continua a rinviare, che è quella appunto della dismissione di molte queste società, dell'accorpamento di altre, di valorizzazione e comunque di pulizia intorno a questo mondo, sia essenziale per ragioni economiche e per ragioni politiche, proprio per disboscare questo malaffare che si diffonde a livello locale intorno alla politica e intorno a queste società. Senti, tra l'altro, a proposito della posizione di Marino, adesso ti faccio sentire un passaggio di Marco Lillo, giornalista e scrittore, che ieri era ospite qui a Effetto Notte, che ha scritto con Lirio Abate I re di Roma, a proposito di Mafia Capitale, perché effettivamente Marino è sempre più assediato con le posizioni che chiedono la sfiducia. Adesso ancora non si capisce se effettivamente il governo ha deciso o no di dare il Giubileo, scavalcandolo quindi, in mano al prefetto Gabrielli, quindi non a Marino. Giubileo che dovrebbe partire l'8 dicembre e durare fino all'incirca un anno. Sentiamo cosa ha detto a questo proposito. Anzi, prima sentiamo Marino quando gli è stato chiesto a Di Martedì se intende dimettersi. Ecco. Ma insomma, mi sembrerebbe il mondo all'incontrario, Alice nel Paese delle Meraviglie. Ecco, e poi Marco Lillo. A me sembra che Marino è veramente vittima di un paradosso, perché da un lato è vero che lui non c'entra nulla, insomma era bypassato completamente da questi affari, dall'altro è stato eletto con i voti dei consiglieri comunali, anche con i voti dei consiglieri comunali che sono stati arrestati il 4 giugno, e quindi da un lato non si è accorto di nulla, e loro stessi nelle intercettazioni dicevano: se Marino resta altri 3 anni con il capogruppo amico nostro ci mangiamo Roma, quindi non faceva certo paura a questa cricca. E dall'altro lato ha il problema appunto dell'immagine della capitale difendere il mondo con il rischio dello scioglimento. Insomma, il senso è che Marino probabilmente non vuole pagare per colpe che non sono fino in fondo sue, sicuramente se non colpe di mancata vigilanza, diciamo, e questo è comprensibile. Dall'altro lato forse dovrebbe avere un po' più di coraggio e sfidare il voto, cioè se fosse lui ad affrontare parlo di sua sponte, cioè volontariamente, dicendo va bene, io non ho nessuna colpa, però per il bene dei romani ridò loro la voce e il voto e lo richiedo, però con una squadra nuova, una squadra mia, una squadra pulita, non la squadra del PD romano che ha dato questa prova, e secondo me i romani lo capirebbero. Aggiorno un attimo sulla partita che so molti ci tengono, Italia-Croazia, l'Italia ha pareggiato su rigore con Kadreva, non so se questo ti rende felice Fabrizio. Più sereno sicuramente. Più sereno. Senti, è sereno rispetto alla tenuta di Marino, sei d'accordo con quello che diceva Lillo, che no, oltre a essere estraneo dovrebbe provare a ritornare alle elezioni? No, non sono d'accordo. Tra l'altro Marino citava Alice nel Paese delle Meraviglie, credo la citasse con un'accezione diversa da quella che invece un po' appare, cioè effettivamente Marino appare un po' Alice nel Paese delle Meraviglie certe volte, soprattutto in relazione a queste inchieste. Detto questo, io credo anche che lui non abbia effettivamente responsabilità dirette e che quindi scaricare, addossare a lui colpe che effettivamente non ha sia profondamente ingiusto. Dicevo, non ero d'accordo del tutto con quello che diceva il collega, perché credo che il primo a non volere che Marino molli e che quindi si vada alle elezioni a Roma sia il Presidente del Consiglio sia il PD, non c'è nessuna voglia di affrontare delle elezioni a Roma, quindi al di là io credo la scelta non sia nemmeno in questo momento in testa a Marino. Marino ovviamente resiste, il sindaco non ha senso sciogliere e proporsi a un test elettorale che sarebbe davvero molto incerto per il PD, talmente incerto che credo non lo voglia affrontare Marino, ma sicuramente non lo vuole affrontare Renzi in questo momento. Fabrizio, invece sulla polemica relativa ai migranti che è stata innescata lo scorso fine settimana da Maroni, che ha detto basta, non ne vogliamo più, non ne possiamo più, e aveva proposto di tagliare i fondi ai comuni che ospitano i migranti. Poi allora ha replicato Renzi dicendo no, piuttosto diamo degli incentivi ai comuni che li ospitano. Maroni poi ha rilanciato dicendo allora diamo degli incentivi a quelli che non li ospitano. Insomma, qualcuno ha anche accusato PD Movimento 5 Stelle e Maroni di aver gettato questo polverone per nascondere un po' i suoi guai giudiziari di questo periodo. Ma io questo non lo so, ma insomma sicuramente è una brutta pagina, pagina difficile anche, perché è vero che non sai da dove prenderla un po' questa emergenza immigrazione. Sì, è vero, questo le soluzioni non c'era nessuna. Oggi Mattarella citava Mr. Wolf con Tarantino, l'ho sentito nei vostri titoli. Qui nemmeno Mr. Wolf risolve problemi, ma questo problema sempre veramente è nessuno in grado di risolverlo. Dovrebbe risolverlo l'Europa, è una banalità che ci ripetiamo. Ma però hai sentito cosa... Fabrizio, che adesso l'Europa sembra che faccia un passo indietro in vista poi della riunione che ci sarà a Bruxelles per decidere effettivamente il da farsi. Prima aveva parlato di quote, di ricollocazione, di quote obbligatorie, di ricollocare dall'Italia e dalla Grecia migliaia di migranti, adesso dice no, forse non è più obbligatorio, forse le quote lasciamole perdere, non è che è vero, si intravedano. No, c'è stato una marcia indietro netta da parte dell'Europa, marcia indietro per chi conosce diciamo le cose europee non è così sorprendente, mai come sulla questione dell'immigrazione si registra proprio la disunità dell'Europa, gli egoismi nazionali dei singoli paesi, è una questione talmente delicata politicamente che così come le regioni italiane si dividono tra di loro, anche gli stati europei si dividono e quindi ognuno pensa di subire, come dire, di farsi carico o di una quota di immigrati, di richiedenti asilo, poi distinguiamo tra immigrati e richiedenti asilo, sono cose molto diverse, ma ogni paese ritiene di farsi carico a sufficienza. La Germania in effetti ha una ampia quota di richiedenti asilo, ricordiamo che non tutti i richiedenti asilo e immigrati arrivano comunque dal Nord Africa, c'è anche il confine orientale dell'Europa. Insomma, le ragioni non sono certamente tutte da una parte o dall'altra, però l'Europa in quanto tale continua a essere totalmente assente e in Italia prevale questo populismo istituzionale che certamente non risolve i problemi, perché poi davanti a un'emergenza tu devi affrontare l'emergenza, se no, se non è gestita l'emergenza diventa sempre più grave e diventa più grave per i tuoi cittadini. Col populismo istituzionale non la risolvi l'emergenza, tu devi tamponare, devi cercare di, non avendo la soluzione con la S maiuscola, devi cercare di intervenire e di gestire la situazione. Se te ne va nel populismo, di sicuro quelli che soffrono di più sono i cittadini, e la soffrono proprio nell'impatto di questi arrivi che diventano massicci, ma più non li gestisci e più l'impatto si aggrava, è grave, evidentemente. Grazie Fabrizio Forché. Ci sarebbe anche la questione del senatore Azzolino, adesso vediamo la prossima settimana cosa decideranno, insomma, se la maggioranza rimarrà unita, perché Alfano ha detto: ma noi leggeremo le carte, sosterremo le inchieste. Arriveremo a venerdì che ne potremo ancora parlare. Appunto. Grazie Fabrizio, buon fine settimana. Ciao Fabrizio Forché. Ciao. Adesso subito ci prendiamo una pausa di ricreazione, poi magari se c'è tempo leggo i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666. Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, Roberta Giordano sempre con voi, come sempre sino alle 22. Vedo arrivare i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Sono molti, ma anche molte le cose che ho da raccontarvi, quindi man mano vediamo. Intanto vi ricordo le notizie se avete acceso la radio in questo momento. La crisi greca, Atene ostenta ottimismo, mai così vicino un'intesa, ma l'ipotesi Grexit affonda le borse. Poi l'aggressione al Capotreno col macete nella periferia di Milano, di cui parleremo tra pochissimo. La politica, domenica prossima i ballottaggi, si eleggono i sindaci in 12 capoluoghi e per il Giubileo di Roma telefonata tra il sindaco Marino e Gabrielli, ma ancora non è chiaro se verrà commissariato Marino per quanto riguarda soltanto il Giubileo. E poi Davide Donatello ha vinto il film come miglior film nere di Francesco Munzi, ha vinto altre 8 statuette e poi per gli europei del 2016 Italia-Croazia per il momento 1-1. Adesso soffermiamoci sul fattaccio di cronaca nera che è avvenuto ieri sera a Villa Pizzone, periferia nord-ovest di Milano, con questo capotreno che è stato aggredito da un gruppo di ragazzi sudamericani. Lui aveva chiesto semplicemente di controllare il biglietto, loro evidentemente non ce l'avevano, uno di loro lo ha aggredito con un macete, lo ha ferito gravemente, tanto che si è dovuto sottoporre a 8 ore di intervento chirurgico per non perdere il braccio. Un altro collega che era giunto in suo aiuto è stato ferito a un grave trauma cranico. Due degli aggressori sarebbero stati fermati, si tratta di due ventenni salvadoregni della gang dei Latinos MS-13, che pare sia una delle più pericolose di Milano. Sono stati fermati con l'accusa di tentato omicidio. Ne parliamo con l'assessore alle infrastrutture e alla mobilità della Regione Lombardia, Alessandro Sorte. Buonasera, Sorte. Sì, buonasera a tutti. E con Antonino Costa, che è capotreno dei Ferrovie Trenord e rappresentante per la sicurezza dei lavoratori del sindacato Orsa. Buonasera, Costa. Buonasera a tutti, buonasera. Assessore Sorte, insomma, un caso questo molto grave. Io leggevo un comunicato delle Ferrovie dello Stato di oggi che diceva che nei primi 5 mesi del 2015 140 dipendenti del gruppo FS sono stati aggrediti. 117 casi riguardano Trenitalia, 23 riguardano i dipendenti di Rete Ferroviaria, ma insomma che la situazione è abbastanza tesa, tanto che le Ferrovie dello Stato dicono o intervengono a migliorare il governo, la situazione della sicurezza delle migliaia di viaggiatori e anche di chi guida i treni, i trasporti eccetera, oppure noi non possiamo assicurare l'incolumità. Sì, intanto mi lasci dire che io oggi sono stato a trovare il ferito, l'ho trovato incredibilmente in forma, nel senso che un ragazzo di 31 anni, padre di famiglia con un bambino di 5 mesi e veramente per poco non perdeva il braccio. Una cosa che è scioccante, noi siamo vicini alla famiglia, siamo vicini a tutti i dipendenti di Trenord, di Ferrovie Nord, di Ferrovie dello Stato, perché quello che è successo oggi è incredibile, è un fatto gravissimo. Io oggi sono andato dal prefetto di Milano, ho chiesto una reazione fortissima perché il livello di insicurezza nelle stazioni e sui treni ormai ha toccato veramente il limite e noi dobbiamo reagire. Quindi noi abbiamo bisogno di più forze dell'ordine. Io oggi stamattina ho fatto questa provocazione, che provocazione non è mica tanto, perché noi dobbiamo anche chiedere l'aiuto dei militari, perché queste persone non stanno lavorando in una condizione di sicurezza, e questo dobbiamo dirlo. Noi abbiamo bisogno che il governo metta quelle risorse sulle nostre stazioni e metta delle risorse per garantire la sicurezza. Assessore Sorti, sentiamo anche cosa ha detto il Presidente della Regione Lombardia Maroni a questo proposito oggi. È concepibile che un macchinista che chiede i biglietti venga preso a colpi di macete, ma non esiste, e quindi abbiamo chiesto di mettere i militari e di mettere anche la polizia che possa intervenire per contrastare questi fenomeni. Se uno mi aggredisce a colpi di macete, cosa faccio? Porgo l'altro braccio o l'altra guancia? Voglio qualcuno che impedisca questo, e se è necessario sparare, deve sparare, non c'è dubbio. Antonino Costa, lei che è capotreno Trenord, si trova d'accordo? Si sentirebbe più sicuro? Ma io sono contento delle parole sentite dall'assessore, però mi auguro che dalle parole poi si passa ai fatti. Noi, come io personalmente, come RLS, ma come capotreno, denunciamo già da parecchio tempo queste aggressioni che avvengono quotidianamente sui treni, soltanto che in questi ultimi tempi abbiamo oltrepassato il limite. Ciò che è successo ieri sera è intollerabile. Non possiamo più, per andare a fare il proprio lavoro, rischiare la vita, rischiare di tornare a casa in una bara. Certamente non è un fatto imputabile in questo caso a Trenord, anche se Trenord dovrà prendere delle sue considerazioni ciò, ma è un qualcosa imputabile alla società. Sono le istituzioni che devono intervenire per tutelare in forma generale tutti i viaggiatori della Lombardia, e poi in particolare anche il personale che chiamato a svolgere quelle azioni di assistenza alla clientela e di trasporto dei pendolari da casa al lavoro e viceversa. Leggevo sempre, tra l'altro, dal comunicato FS che il numero degli aggressori stranieri è 54 di questi 140 casi, e di poco superiore a quelli di nazionalità italiana, 41, quindi siamo lì in realtà, assessore Sorte, no? È un problema di sicurezza in generale. Guardi, io non ne faccio una questione di italiano o di straniero, perché qui il governo quest'anno ci ha tagliato 800 milioni di euro alla regione Lombardia, e quindi in generale noi siamo in difficoltà a garantire più sicurezza, più forze dell'ordine e, nel caso specifico, anche più vigilance privati. Poi che sia stato un extracomunitario, questo non è la prima volta. Guarda, basta guardare la stazione centrale oggi cos'è, è una stazione, oltre che ai profughi, agli immigrati, è anche una stazione completamente nelle mani dell'insicurezza e della criminalità. Io ne faccio proprio una questione però puramente di sicurezza, e dico che così non può andare. Ma volete l'esercito? Per esempio c'è Mimmo da Teramo tra i messaggi, dice: i capitreni dovrebbero essere scortati da vigilantes butta fuori treno, sono oramai troppi portoghesi aggressivi, italiani e stranieri, quindi esercito, vigilantes. Io dico che questo è il senso della mia proposta, e sono soddisfatto che il presidente Maroni, dopo che io ho lanciato questa proposta, l'abbia ripresa e l'abbia fatta anche in Lombardia, perché questa proposta, vede, non è dire, come ogni tanto la Lega fa provocando, ruspa, no? Qui servono forze dell'ordine, i nostri dipendenti di Trenord e non solo, tutti i dipendenti delle ferrovie dello Stato a una certa ora rischiano veramente la vita, e questo, ma e non solo, anche i pendolari ovviamente. Sì, no, il paradosso è che mi pare che di giorno siano più controllati e di notte no. È così, Costa, per chiudere? Esatto, stavo ascoltando proprio le parole. Noi abbiamo delle fasce in cui, sinceramente, cioè dalle 20 in poi, dalle 20 e 30 in poi, fino a mezzanotte e l'una, in cui il personale di bordo, i capi treno, hanno la percezione, ma anche i clienti hanno la percezione che c'è uno stato di abbandono sui treni, e pertanto questa gente, questi criminali, io li chiamerei, hanno facoltà di fare ciò che vogliono, di salire, di spaccare, perché non dimentichiamoci anche che Trenord ha un vandalismo molto molto importante, pertanto sono soldi che impegna, che potrebbero non impegnare nelle spese per atti vandalici, che si potrebbero impiegare da qualche altra parte. Sì, condivido in pieno il ragionamento che lei sta facendo, parliamo di 8 milioni di euro, cioè ci rendiamo conto cosa costano a Trenord gli atti vandalici. Ed è sono veramente... d'accordo, sono d'accordo. Allora, mi fa piacere, stavo concludendo sì, che siccome talvolta Trenord mette a disposizione dei vigilantes sui treni e noi come personale di bordo, quando abbiamo questi vigilanti sui treni, ci sentiamo, non dico tutelati al 100%, però ma un po' più protetti. Tutelati. Ecco, ci auguriamo che quindi non debba succedere qualche altro episodio, perché diciamo sono abbastanza all'ordine del giorno, questo particolarmente grave. Mi fa piacere che l'assessore Sorte e il capotreno Trenord Costa siano d'accordo, ci auguriamo insomma che davvero la situazione migliori, perché appunto sia per i pendolari che anche per il personale. Grazie intanto assessore Sorte, grazie Antonino Costa. Tra l'altro, fra le regioni, la classifica che faceva Ferrovie dello Stato delle regioni più interessate al fenomeno delle aggressioni del personale ferroviario sono Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Campania e Toscana. Tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. In pochi secondi vi ricordo appunto, abbiamo appena parlato del capotreno aggredito col macete nella periferia di Milano, quindi si rinfocola anche la polemica sui migranti e poi Atene che non molla, niente tagli, dice ma siamo vicini all'accordo, mentre invece c'è l'ipotesi Grexit che affonda le borse e poi ancora l'incertezza sul commissariamento o meno del Giubileo e l'affidamento al prefetto di Roma Gabrielli anziché al sindaco Marino, ma pare che ci sia stata una telefonata tra Marino e Gabrielli, ancora non è chiara la situazione. Italia-Croazia per Euro 2016 intanto sono 1-1. Europa 24 notte. In Europa le donne guadagnano fino al 30% in meno degli uomini a parità di competenze e di mansioni. Si chiama Gender Pay Gap, il salario retributivo di genere per il quale la Commissione europea ogni anno celebra la giornata per la parità retributiva. L'ultimo giorno di febbraio, perché è come se le donne lavorassero gratis i primi 59 giorni dell'anno, pensate. Secondo dati Eurostat, lo scarto maggiore è in Estonia, Austria e Germania, il minore in Slovenia, Polonia e sorprendentemente in Italia. Ma i dati in realtà non tenerebbero conto di alcuni fattori. Alessandra Schepisi ne ha parlato con Linda Sabadini, direttrice del Dipartimento Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat. Noi abbiamo analizzato il rendimento dell'istruzione, differenziato ovviamente per genere, il rendimento dell'istruzione dal punto di vista proprio delle retribuzioni, e quello che viene fuori è che ovviamente avere la laurea porta a un rendimento più forte. Il problema è che il valore aggiunto che c'è per un uomo è molto più alto se ha la laurea che il valore aggiunto che c'è per una donna, quindi in sostanza le donne si avvantaggiano di meno della laurea, perché le donne soprattutto si avvantaggiano della laurea per trovare un lavoro, ma non necessariamente per incrementare molto la loro retribuzione, soprattutto perché di solito si inseriscono in settori che sono meno pagati, si inseriscono, scelgono anche titoli di studio che gli danno questi sbocchi e per tutta un'altra serie di motivi che conosciamo, come il fatto che esistono delle barriere, no? Per le donne di arrivare ai livelli più alti, il famoso soffitto di cristallo. Quindi sulla carta in realtà l'Italia avrebbe uno dei divari minori salariali tra uomo e donna, questo anche perché i contratti collettivi comunque non è che prevedono differenziazioni, però appunto il dato va spiegato e bisogna andare oltre. Allora, intanto i contratti collettivi, stiamo parlando della retribuzione base, quindi già là la differenza la fanno i premi e questa è una delle differenze fondamentali, gli straordinari eccetera, che le donne ne fanno di meno. Quello che va detto è che poi l'indicatore europeo del gender pay gap, che ci pone come paese ai livelli più bassi, bisogna saperlo leggere. Noi abbiamo un divario più piccolo tra uomini e donne in Italia perché quell'indicatore non tiene conto che lo si calcola a parità di professione. E allora, siccome in Italia se tu non hai un titolo di studio elevato, diploma o laurea, per una donna è difficilissimo entrare nel mercato del lavoro, soprattutto al sud il tasso di occupazione non arriva neanche al 30%, anzi arriva sotto al 20% se il titolo di studio è basso. Questo che vuol dire? Che noi facciamo un confronto tra le retribuzioni orarie degli uomini e quelle delle donne, ma quelle delle donne donne sono tutte un po' più alte, perché le donne che prenderebbero delle retribuzioni basse non riescono proprio a entrare nel mercato del lavoro. Quindi bisogna fare attenzione quando si analizzano questi indicatori. Non è un caso che noi stessi avevamo chiesto un pochino di rivederlo questo indicatore, perché per i paesi dove la partecipazione femminile è più bassa, il gender pay gap diventa più basso semplicemente perché le donne non si inseriscono nei livelli più bassi di occupazione. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E ora è tempo di sapere che tempo farà col nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Io ho l'impressione che ci sarà sole a Catinelle. Magari. Allora, buonasera Roberta. In realtà per il centro-sud, tutto sommato, la situazione sarà buona questo weekend, fine settimana estivo, con tante schiarite e soprattutto temperature elevate. Invece per il nord Italia, weekend molto più instabile, domani piogge al nord-ovest, sono già in atto in questo momento, e domenica anche al nord-est. E una prima diminuzione delle temperature che, attenzione, in settimana poi interesserà anche il centro-sud. L'estate farà un passettino indietro a partire da martedì, mercoledì. Anche qui questo balletto, questo ping pong, insomma, sopportiamo. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia. Grazie, buon weekend. Ciao Paolo. Intanto per sorridere leggo un messaggio di Daniele che dice: hai una voce che nemmeno Moana Pozzi. Questo mi conforta, perché potrei avere una professione di riserva, insomma, se dovesse andare male. Fra l'altro leggevo dal comunicato di FS che una possibile soluzione che stanno realizzando le Ferrovie dello Stato è quella di porre barriere all'ingresso delle stazioni per impedire l'accesso a chi è senza biglietto, perché affrontare da sola la situazione, cioè, non ce la facciamo. Mi sembra che fosse già una cosa che stavano iniziando a fare, quella di impedire a chi è senza biglietto di entrare, però poi è sembrato che la cosa finisse lì. Staremo a vedere, insomma, se si trovano delle soluzioni. Intanto qui ci lasciamo momentaneamente, ci risentiamo alle 22:00.